Inconvocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. In effetti c'è da comunicare la... Aspetta, è difficile, dai. La rescissione consensuale del contratto tra me e la Juventus, che ci legava anche ancora per quest'anno. E agghiacciante quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? E agghiacciante che un Conte tecnico tattico non possa vincere una partita col Catania senza che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. E agghiacciante, chapeau. Mi prendo le colpe. Vuoi mettermi la croce? Incrociatemi. E agghiacciante, io ho paura. Guardarti adesso negli occhi non ha senso per me. Diciamo che vincere prima di tutto è difficile, comporta tanta fatica ovunque tu ti possa trovare, ecco. È inevitabile che quando sei in una società così prestigiosa come la Juventus, che vanta una tradizione di vittorie così importanti, c'è l'obbligo della vittoria e forse può essere un po' più faticoso, no? Rispetto ad altre parti. Percorso in cui ho maturato delle percezioni, delle sensazioni che poi mi hanno comunque portato a questa decisione. .000240024, io mi inchino al genio di Roby Scaltritti, regista, autore di questa copertina, Franco Piantanida, autore di questa puntata. Poi c'è Claudia Schiattone, che non ha più occhi per piangere da ieri sera ore 20, quando, ma tanto lo sapete, Antonio Conte rescinde il contratto con la Juventus. Poi questa mattina arrivano le voci, infine l'ufficialità, Massimiliano Allegri. Io la penso così: agghiacciante è poco, perché non era mai capitato che un club di primo livello, e a maggior ragione la Juventus, si trovasse il 15 luglio, ore 20, senza allenatore, con in mano una lettera firmata dal presidente, 225 secondi di video postato su YouTube che dovevano spiegare tutto e non spiegano nulla, di un vero terremoto. 800 24 0024, tra poco meno di un'ora Allegri si presenta, prime parole da allenatore della Juventus, tifosi in rivolta, petizioni sui social network, però era l'unica scelta possibile, io credo, era l'epilogo di una vicenda in cui escono tutti malissimo, per primo Conte, ma anche la Juventus. Però io ho convocato Massimiliano Nerozzi, inviato della Stampa, per chiedergli se la pensa diversamente. Ciao Max! Ciao, buon pomeriggio a tutti! La pensi diversamente, tifosi in rivolta contro Allegri? Io dico, non esisteva un'alternativa ad Allegri, perché poi gira per fare un allenatore in 12 ore e dare un segnale di chiarezza e di compattezza, o facevi Allegri o al massimo Mancini. Per tutti gli altri non esistevano tempi tecnici. No, hai ragione tu, ha comandato il tempo, non si poteva lasciare neanche un giorno una squadra senza guida. La stagione è già iniziata, Allegri è una soluzione più rapida, secondo me neanche così sbagliata dal punto di vista tecnico, dico. E sulla rivolta dei tifosi, guarda, per adesso è un più virtuale che reale, nel senso che qua a Torino forse sarà per i 36 gradi, ma grandi proteste non si sono ancora viste. Sì, poi c'è anche il precedente di Ancelotti, lo ricordiamo tutti, che era stato accolto da quei cori sgradevoli, un maiale non può allenare. Poi Ancelotti per 2 anni ha fatto un piccolo pezzo della storia della Juventus, e oggi è uno degli allenatori più affermati. Ho detto, Max, escono male tutti e due, e esce male certamente Conte, perché se aveva deciso che la storia era finita poteva fare un favore alla Juventus e comunicarlo a maggio. Esce malissimo, credo, la Juventus, perché non si è mai visto un club di questo livello il 16 luglio costretto a cambiare allenatore. guarda, anche qui è una questione di tempo, veramente tempo, o forse di coraggio anche. A maggio Conte e la Juve si sono rivisti, si sono riparati, hanno discusso come era successo un'estate fa, e alla fine ha deciso di tirare avanti. All'epoca fu scritto più per le carte che per il desiderio di farlo. C'era ancora un anno di contratto, forse la Juve non era facile, per carità, non si è sentita di lasciare a casa, di troncare con allenatore che ha fatto la storia, tre scudetti di fila dagli anni 40, non ne aveva vinto nessuno, e lui stesso non si è sentita di dare dimissioni. E da questo è nato questo pastrocchio. 800 24 00 24. Massimiliano Nerozzi resta, adesso ripristiniamo la linea. Mi interessa sapere cosa ne pensate anche voi. Chi ha più colpa, ad esempio, tra Conte e la Juventus? E secondo me le colpe di Conte ci sono nella gestione di questa cosa. E poi soprattutto, se vi convince Allegri, nuovo allenatore, lo ricordo, fra tre quarti d'ora Allegri si presenta. 800 24 00 24. Traffico. Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro. Tutti convocati. Ogni volta che parla Allegri deve chiedere l'autorizzazione a Marotta, e Marotta mi ha pregato di dire di parlare senza chiedere autorizzazione, perché lui deve pensare, io ogni volta deve chiamare per prendere autorizzazione. Quindi datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei, era solitudine, ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Ho sentito un argomento nuovo, sì. Ho sentito le dichiarazioni di Allegri, dopo due mesi ancora si parla del gol di Muntari. Io penso che, cioè, questo argomento onestamente sia diventato di una noia mortale, veramente. Dopo Parma abbiamo sollevato un problema e ci è stato detto: state zitti. Siamo zitti, lasciamo le altre in serenità. Innanzitutto colgo anche l'occasione per salutare Allegri, che in questi due anni e mezzo si è dimostrato un grandissimo avversario per la Juventus, e quindi comunque dispiace quando un nemico, tra virgolette, no? Però un nemico sempre molto rispettato come avversario, alla fine, per forza di cose, comunque deve abdicare, no? Vi leggo qualche messaggio che sta arrivando. Allegri ha tanti problemi, la collocazione di Pirlo, e poi parte al rallentatore. No, Allegri non lo vogliamo. Questo è Renzo, tifoso della Juventus. C'è chi scrive su Twitter: e adesso chiedetegli se la palla di Muntari era dentro o fuori, perché Allegri non ha avuto parole tenere in questi anni sulla Juventus. È caduto Pierluigi? Non c'è Pierluigi Pardo, ma adesso lo agganciamo. Pier, ci sei? Ciao. Eccoti. Beh, insomma, rispetto a quello che ti sei lasciato alle spalle in Brasile, le dimissioni di Felipao Scolari, direi che le dimissioni di Felipao Scolari sono nulla rispetto a quello che hai trovato in Italia. Tra l'altro ero su questo aereo, c'era Marco Materazzi, c'era Francesco Repice, c'era Enrico Gurrò, Ugo Trani. C'erano chiaramente un po' di giornalisti che trovano a Brasile, più Materazzi che era stato lì con uno sponsor. E insomma, stamattina sembrava uno scherzo. C'era alle 6:30 di mattina, Fiumicino, c'era un ragazzo lì che diceva: Conte si è dimesso. Io sì, vabbè, cioè, primo aprile. E invece tutto così, vero. E chiaramente, insomma, l'avevamo intuito, che ne avevamo anche parlato per un mese e mezzo. Non fossero eccezionali e che ci fossero delle divergenze, però sembrava tutto congelato in una 0-0, che era il mancato rinnovo del contratto ma anche il mancato divorzio. Invece è successa questa cosa clamorosa che, secondo me, di fatto indebolisce la Juve oggettivamente, perché, con tutto rispetto per Allegri, adesso ci sono critiche, diciamo anche un po' di cuore, secondo me, di rivalità da parte di molti tifosi della Juve. Con tutto Allegri, che è un bravissimo allenatore, Conte è stato negli ultimi anni in quella squadra lì il valore aggiunto assoluto. È stato l'anima, è stato colui che cosa, tecnicamente ha costruito il progetto. Per non fare 0-0, io spero che Conte possa diventare il prossimo, chiaramente se gli fa piacere, e spero che gli faccia piacere, il prossimo allenatore della nazionale. Spero di no, carissimo Pierre. Non subito, perché c'è anche una forma da rispettare. Non so cosa ne pensa Massimiliano Nerozzi, e poi ti giro anche bravo Max. Tutti, dai, gli ultimi anni sono più bravo di tutti. Sì, per carità, ma esiste anche una forma da rispettare. Poi chiedo a Max anche se la Juve di Allegri sarà necessariamente meno forte di quella di Conte. Max, se fosse più forte sarebbe un destino cinico e baro per Conte. No, guarda, sentendo Conte gli ultimi giorni e guardando ieri nel video, sarei molto sorpreso se andasse alla nazionale. Dopodiché, diceva Pierre, ne abbiamo visti tutti i colori in quest'ultimo mese, però mi sembrava una persona molto molto provata ed è posta dentro, e per questo anche ha lasciato un incarico. Su Twitter che dicevi prima, in effetti è molto divertente, che è meglio di insulti in ironia. Sulla tua domanda su Muntari, c'era un tweet stanotte che diceva che Allegri ha dichiarato che la parata di Buffon era sottinea. Ma io non ho dubbi, oggi gli chiederanno quanti scudetti alla Juventus, io non so se glielo chiederete, però diciamo, queste sono le fantasie anche poi del popolo della rete. Sì, c'è questa riflessione, mi piacerebbe ad esempio capire da Massimiliano Nerozzi, che conosce molto bene le cose dentro il mondo Juventus, se quella domandina magari riusciamo a farla risentire, quella domandina buttata lì dal giornalista del canale ufficiale della Juventus a proposito della nazionale, messa lì non a caso, credo, nel corso di questi 3 minuti di confessione di Conte, possa essere stata casuale o no. La sentiamo, dai. In Italia in questo momento c'è una panchina vacante molto prestigiosa, è quella della nazionale. Questa per lei a questo punto è una possibilità? Guarda, in questo momento io penso al presente, alla decisione presa e maturata, ecco. Max, cosa vuol dire questa domanda? Bella domanda. No, forse obbligata, però ti ripeto, un allenatore che ambiva all'estero, una premia, studiava l'inglese, ha grandi ambizioni, giustamente anche di retribuzioni, di carriera e di Champions, sarei sorpreso per la tempistica. Dopodiché è vero, ha dimostrato di essere il più bravo di tutti, quindi saremo tutti contenti di vederlo come CT. Ho grandi riserve di vederlo adesso, ma magari mi sbaglio. C'è anche un pragmatismo, perché è vero assolutamente come dice Max, c'è questa ambizione internazionale di Conte, nemmeno troppo tosta degli ultimi anni, quella di andare a allenare all'estero, però in questo momento, quindi a metà luglio, con i giochi delle panchine internazionali ormai praticamente fatti, questa è una grande opportunità. No, è vero, è una grande opportunità. Fra l'altro posso dire una cosa, Conte, che insomma chi lo conosce sa che poi in realtà in privato, come molti, è anche un po' diverso dallo stereotipo pubblico, no? Cioè, poi quando è più rilassato, chiaramente è una persona molto più godibile di certi momenti polemici che si vedono in giro. Credo che potrebbe anche avere un giovamento, al di là del prestigio a prescindere, potrebbe diventare veramente l'allenatore di tutti con la nazionale. Per me è una considerazione di fondo, che al momento non sappiamo neanche chi è il presidente, quindi mi sembra abbastanza difficile che lui possa fare qualcosa, perché dovrebbe aver parlato. Posso aggiungere una cosa, Pierre? Che sarebbe l'allenatore di tutti, meno forse gli juventini, che hanno abbastanza al dente avvelenato da ieri, e non è un dettaglio, visto che rappresentano con 14 milioni la maggioranza dei tifosi italiani. E poi mi viene da chiedere, ma qualcuno ha telefonato a Conte in queste settimane, cioè a un allenatore sotto contratto, Max? No, io non credo proprio. E poi mi prendo la parte brutta di parlare di vino e pecunia. Conte quest'anno con i premi andiamo attorno ai 5 milioni di euro, più per eccesso che per difetto. E nazionale siamo sugli 1.7. Non lo so, non ha 70 anni Conte, ha delle ambizioni, ribadisco, sportive e giustamente economiche, che siamo tutti sul mercato. Io sarei sorpreso, anche per questo fattore qua. Sì, però è pure vero che se stai fermo non prendi niente, se vogliamo fare sempre un discorso di pecunia. Lui forse a giugno ci ha anche provato, immagino legittimamente avrà ascoltato le spane che ci potevano essere, le sirene che ci potevano essere in quelle sono le grandi panchine europee. poi non si è fatto nulla, quindi a questo punto è una situazione di stand-by, che significa cominciare l'anno da disoccupato, diciamo, insomma, da libero cittadino. E fra l'altro, per come è lui, per come ha impostato il lavoro, credo sia un allenatore che ha voglia di non prendere un progetto in corsa, quindi non è uno che sta lì a aspettare l'esonero, è uno che ha bisogno di una grande panchina e se l'è meritata in questi anni. E secondo me la nazionale, ripeto, per un bisogno è a questo punto è una soluzione molto interessante. Io, al di là del fatto che non so chi sarà il presidente, ripeto, è il primo nome, perché è l'allenatore in questi anni, in maniera più, l'allenatore italiano in questi anni in maniera più evidente, ha cambiato il volto a una squadra e l'ha fatta vincere l'Italia e non in Europa, però insomma se l'è meritato, secondo sì, me. Ma tecnicamente non c'è dubbio, io ne faccio un ragionamento di opportunità. C'è quella dichiarazione che aveva fatto Conte verso il finale della stagione scorsa, dovessi cambiare non credo che starò fermo perché poi prenderei a testate il muro dopo un paio di mesi, mi conosco. Posso fare le ultime due domande flash a Max Nerozzi, poi prendiamo anche gli amici da casa, 800 24 00 24, ci sono già Carlo, Luca, Lucio. Max, togliamoci il dente, lui se ne va perché uno fra Vidal e Pogba è già venduto, è vero o no? Potrebbe essere vero fra qualche settimana, quindi ci sono anche dei dissapori di mercato, evidentemente lui è rientrato e non ha trovato quello che gli era stato promesso a livello di progetti. La promessa era di non vendere né Pogba né Vidal, e dopodiché nei desiderata c'erano Cuadrado, Di Maria, Sanchez, per fare tre nomi, non tutti e tre, bastava uno. Morata, Iturbe, che già Iturbe non era la Juve, ma diciamo che era notato, e Debra non erano nella lista, quindi sai, è la terza estate che dal punto di vista di Conte va così, e quindi ha tratto le conseguenze. Grazie Max. Ciao a voi, ciao, buon pomeriggio. Grazie Massimiliano Nerozzi. 800 24 00 24. Scrivono gli amici da casa: Pier, ma voi credete davvero che un allenatore rinuncia a 5 milioni senza avere in tasca un'alternativa? Questo è Fabio. Poi c'è anche chi dice: ma chi lo vuole all'estero? Beh, in questo momento all'estero non ci sono panchine, forse non c'è neanche il Monaco, quindi io credo di non fargli un torto. Lui sicuramente aveva quell'ambizione e probabilmente c'è ancora, però mi ricordo che ne abbiamo parlato molto in occasione della sconfitta contro il Benfica in Europa League, perché io sono convinto che se lui avesse vinto l'Europa League, e poteva farlo perché secondo me c'erano le condizioni per poterlo fare, anche la sua immagine internazionale, che se vuoi è l'unico anello un po' debole di una carriera per il resto straordinaria, insomma anche la sua credibilità internazionale sarebbe sicuramente cresciuta, e magari un'offerta di quel tipo l'avrebbe avuta. Sicuramente qui ci sono degli sapori, sicuramente è successo qualcosa nelle ultime ore, c'è anche un po' di, diciamo così, di gesto clamoroso, folle, non è razionale, secondo me una cosa come questa non è razionale, perché altrimenti se ne andava a giugno, sì, altrimenti era già tutto chiaro due mesi fa. È successo sicuramente questo. Ci può essere la variabile della nazionale, ripeto, io lo spero, perché con tutto rispetto per Mancini, che sarebbe l'altra scelta, ma anche per Guidolin, che però si dice, io Guidolin lo adoro, però insomma, se Guidolin è uno che lui stesso dice che ha problemi di gestione della pressione a Udine, con tutto il rispetto per Udine, insomma pensa con la nazionale dove veramente le tensioni sono enormi, no? Quindi ho soltanto questo dubbio su Guidolin, per il resto è un allenatore della continuità eccezionale. Però Conte in questi ultimi anni è la testa di numero uno, cioè se il calcio italiano deve ripartire da un manager forte, questo signore si chiama Antonio Conte. Sì, io dico che ci siamo abituati a tutto, anche a un CT che se ne va in Turchia quattro giorni dopo l'eliminazione dal mondiale, ci sta tutto, ci sta anche che Conte se ne vada per motivi personali, come ha scritto Agnelli nella sua lettera, e dieci giorni dopo firmi per qualcun altro. Però questo è il mio parere, Pier. Però stai lì, c'è la borsa, c'è anche chi scrive: Conte è un allenatore che spreme i giocatori, come potrebbe farlo una volta ogni tre mesi con la nazionale? Perché anche questo è un tema. 800 24 00 24. È un fulmine a ciel sereno, però insomma, vedendo le parole che sono state adoperate e i toni molto pacati sia da parte del mister sia da parte della società, ci fa capire che in maniera congiunta, si è arrivati a questa decisione senza nessun tipo di strappo, no? Tutti convocati. dopo 10 anni volevo cambiare, volevo stimoli nuovi, e la Juve mi dava questa opportunità, dato anche gli ultimi anni di non vittorie. No, ma non è giusto rispondere a Andrea, perché Andrea lo stimo veramente come ragazzo, perché è stato un grande professionista, come giocatore, che è un giocatore straordinario, che il suo ruolo è quello davanti alla difesa, e che però il Milan aveva intrapreso una strada diversa, ma soprattutto anche per caratteristiche di giocatori. Ma no, credo che la questione di Pirlo, chiusa 3 anni fa, è stata una scelta, insomma, di Andrea, della società, quindi è stata spiegata e rispiegata. Poi è normale, Andrea è un grande campione, ha fatto un bellissimo alla Juventus, ha fatto bene l'altra sera in nazionale, 3 anni fa, quando lo feci giocare in quella posizione mi davano del matto. Chissà se l'Allegri Juventino riuscirà a risolvere il nodo della posizione di Pirlo, questa è una delle domande, ma cominceremo a capire qualcosa tra 25 minuti, presentazione di Allegri allo Juventus Stadium. 800 24 00 24, c'è anche Pierluigi Pardo. Luca da Torino. Luca, buongiorno. Prego. Senti, io sono abbonato da sempre in Curva Sud, Scivea. E vi posso assicurare che da oggi, fino a quando non se ne andrà, Allegri verrà assolutamente contestato per quello che ha fatto, per quello che ha detto. Non sarà mai, mai uno di noi, mai. Storicamente alla Juve hanno sempre solo vinto gli allenatori con il DNA juventino, col DNA juventino, o quantomeno gente come Lippi, come Trapattoni, che non erano juventini, ma avevano grinta che assolutamente quest'uomo non ha. E ripeto, verrà contestato sempre, comunque, ovunque. Sì, Luca, non sempre i tifosi hanno ragione, Pier. Ricordo che i tifosi della Juventus dissero no, ad esempio, a Stankovic, che era nel pieno della carriera. Senza Lancelotti, adesso gli hai fatto il Lancelotti alla Juve, c'è stato e anche sbagliato delle cose, e anche perso, ha anche fatto 144 punti in 2 stagioni. Sì, in 2 stagioni, senza vincere il campionato, la Piaggia di Perugia, il secondo posto, un anno dietro la Roma, un anno dietro la Lazio. No, io capisco, siccome il calcio non è un business come tutti gli altri, non è un'industria siderurgica nella quale c'è l'amministratore delegato che sceglie soltanto in funzione della razionalità. Il calcio chiaramente ha un pubblico di riferimento che è anche irrazionale, e questo discorso io lo accetto, lo capisco benissimo, questo ascoltatore lo capisco. Poi penso anche che se Allegri sarà in grado di partire molto bene, poi magari certe cose potranno cambiare, quindi è sul verrà sempre contestato che possa essere qualche dubbio. Sicuramente parte con la strada in salita, e francamente, al di là del fatto che si può non essere d'accordo nella sostanza, che nel calcio ci sia questa componente per cui se tu sei stato dall'altra parte, i tifosi non ti accettano e non ti vogliono bene e si oppongono, alla fine fa parte del gioco. Sì, anche uno dei lati affascinanti. Però secondo me una società ha anche diritto di fare le sue scelte. Detto che questa è una scelta sbagliata, ma sbagliata per i tempi. Poi se Allegri è la scelta giusta o no, lo scopriremo da settembre. È l'esatto contrario della prima scelta di Agnelli. No? Agnelli, da presidente, fece questa scelta molto popolare nei confronti dei tifosi, in un momento difficilissimo, con la gestione dei 7 posti, presero questo allenatore che era promettente, ma che ancora aveva dimostrato poco, ma che era una garanzia agli occhi dei tifosi. Io avevo seguito il primo ritiro con Libardonecchia nel 2011. Insomma, Conte sì, ora il profilo è completamente diverso. Lucio da Roma. Lucio. Salve, grazie. Prego. Della convocazione, i complimenti sono d'obbligo, ovviamente. Niente, io ho la speranza, ovviamente tifoso juventino, io ho la speranza che voi, dall'alto della vostra esperienza, mi aiutate a capire. Io ho l'impressione, magari, che ne so, me la confermerete o no, che ieri abbiamo assistito ad una pantomima di bassa lega proprio. Mi spiego, 2 mesi per chiudere 3 trattative con dei calciatori che poi, per carità, a parte i Turbe, che forse in questo momento c'ha un mercato particolare, sì, e che va alla Roma, perché questa notte i Turbe, di fatto, esatto, la Roma ha superato la Juventus. Esatto. Quindi 2 mesi per chiudere 3 trattative, tra l'altro neanche sono state chiuse, mezz'ora per chiudere con Allegri. È di ieri la notizia della chiusura della campagna abbonamenti causa esaurimento degli stessi. Dopo 8 ore dal commiato di Conte, i turbe, si scopre della Roma, il sorpasso, eccetera. Voglio dire, sì, ma io non credo però, Lucio, che ci fosse tutto preparato. Io credo che la Juve sia stata spiazzata da quello che è successo nelle prime 48 ore del ritiro. Poi, come diceva Massimiliano Nerozzi, in 12 ore doveva trovare un allenatore. Non si poteva restare senza allenatore, anche per una questione di immagine. E quindi 2 erano quelli liberi, hanno scelto Allegri fra Allegri e Mancini, e a quel punto l'accordo si è trovato nell'arco di qualche minuto. Carlo da Vicenza. Carlo. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Prego. Ma proprio in riferimento a quello che stai dicendo tu adesso, ma cosa va a allenare in questo momento a Vinovo, Allegri? Tevez, Llorente, Bonna è un branco di ragazzini? C'era tutto il tempo che si voleva, se si volevano fare le cose fatte. No, c'era bene. Tempo fino a lunedì, Carlo, perché poi rientrano i nazionali, giusto Pier? Sì. Non c'era, poi c'è anche il discorso se vuole dell'immagine, insomma. Comunque sia, i nomi erano quelli, cioè adesso sinceramente non è che da qui a lunedì uno può inventarsi chissà chi, i nomi erano quelli, erano Allegri, Mancini o il subordine Mihajlovic, che però era molto complicato perché doveva liberarsi dalla Samp, o Spalletti, che però prende tanti soldi in Russia, anche da fermo. Quindi alla fine sì, sicuramente si poteva aspettare, si poteva prendere 48 ore di tempo, non sarebbe morto nessuno, però tanto i nomi erano quelli, cioè non è che si liberava. Sì, anche perché Spalletti in realtà libero non è, perché Spalletti non ha ancora rescisso con la sua squadra, Mihajlovic di cui si è parlato libero non è, ci sono tempi tecnici, quindi la verità è che la Juventus aveva in mano 2 scelte, diverso sarebbe stato il discorso, e secondo me Allegri non sarebbe stato l'allenatore della Juventus se tutto fosse accaduto a fine maggio come normale. Saluto Alessio Tacchinardi, ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. È l'allenatore giusto Allegri o hanno ragione i tifosi, li hai sentiti? C'è anche chi scrive su Twitter, Mattia, ho seguito la Juventus sempre e comunque, ma da oggi non la vedrò più, no ad Allegri. Ci sono tifosi interisti che scrivono, sono interista, godo per come si sono suicidati. Che ne pensi Alessio? Guarda, sicuramente è stata una notizia bomba, però se noi andiamo a valutare... L'articolo di Twitter che è stato fatto a maggio dalla Juventus, molto freddo, molto scarno, Conte sarà allenatore per la prossima stagione, quando si parlava di rinnovo, non rinnovo, lì personalmente mi ha fatto pensare che volesse già andare via o volesse delle garanzie che però la Juve non gli poteva dare, e quasi sono arrivati quasi al braccio di ferro. Quindi è una situazione che poi non è migliorata. Adesso non so onestamente se è su un discorso di mercato o discorso di motivazione e stanchezza. Ricordiamoci che Conte ha detto non si può andare a mangiare bene in un ristorante 10 euro. Io penso che lui voleva acquisti importanti, acquisti che se vuoi cercare di vincere il Champions hai bisogno di qualcuno di più qualità. Detto questo, però, sono d'accordo con i tifosi che si poteva aspettare qualche giorno in più. Allegri sicuramente è vero, ci sono questi, ma si potrà aspettare qualche giorno in più, valutare con un po' più di calma, anche perché io ho avuto l'esperienza personale essendo in campo, quando è arrivato Ancelotti che non era ben visto dalla piazza, non è stato facile. Io non sto discutendo le qualità tecniche di Allegri, perché secondo me è un allenatore molto preparato, sicuramente però partire con una tifoseria contro non è facile, perché io l'ho visto per esperienze con Ancelotti. Non è facile da gestire per tutto l'ambiente. Sai, al primo risultato negativo. Poi guarda, una cosa che si era creata a Torino, e io andavo spesso, è veramente quella forte juventinità. Cioè, i tifosi si identificavano in Conte, che comunque è stato un loro condottiero. E adesso trovarsi sulla panchina uno che comunque è stato, tra virgolette, un nemico da milanista, e ricordiamoci quello che è successo con lo scudetto, il gol non gol di Muntari. Cioè è una cosa difficile da digerire, anche se, ripeto, secondo me i tifosi dovranno farsene una ragione, perché poi una società ha anche il diritto di scegliere. Pier? Sì, no, ma le posizioni sono chiarissime, il diritto, però la società nel fare le possibilità chiaramente prende il rischio ambientale. Il corso che facciamo prima qui non è un'azienda di tubi, è un'azienda di sentimenti, di emozioni, di passione, di entusiasmo, di entertainment, di spettacolo. Se il tuo fruitore se il tuo user, cioè la tua user base, vuol dire come fanno marketing, no? Chi ti compra il biglietto, l'abbonamento, le sciarpe, le maglie, è meno felice di prima, questo potenzialmente è un problema, non è una questione astratta. Poi io sono convinto che, come tutte le cose della vita, se Allegri parte bene, se la Juve gioca bene, per esempio penso che alla fine tutto il discorso su Pirlo, che sicuramente giornalisticamente è un discorso da fare, è un po' esagerato, nel senso che Pirlo della parte finale della sua esperienza al Milan era un giocatore che sembrava in calo, onestamente. Sì, però è anche un giocatore che ha spiegato chiaramente di aver chiuso anche perché non si sentiva in nessun modo valorizzato da Allegri, non l'ha nascosto. C'erano anche dinamiche contrattuali, sì. C'era anche la società, io non penso che fosse soltanto una decisione di Allegri quella. Aspettate, vi devo fermare perché c'è il traffico. Pier, ti saluto? O resti con noi? 5 minuti, dai. 5 minuti dopo il traffico. Tutti convocati. Poi c'è chi dice: se qualche abbonato vuole cedere l'abbonamento, io ci sono, la Juve non può essere abbandonata dai tifosi. Ma c'è anche chi scrive: una squadra e una società sono fatte dai tifosi e non si può andare contro quello che pensano. Volevo chiedere a tutti e due, partendo da Alessio, che ha vissuto in un grande spogliatoio e ci raccontava anche dell'arrivo di Ancelotti, secondo te come la prendono i giocatori? Perché poi in queste ore si scrive di Tevez che chiede un appuntamento, di Morata che ci sta ripensando, di Evra che ha detto al suo procuratore di aspettare un attimo perché vuole capire chi sarà il prossimo allenatore. Cosa succede poi tra voi giocatori? Volevo un attimo, quando Pier diceva prima, sì, che poi ai primi risultati cambierà tutto. Io però continuo a battere sul chiodo che anche con Ancelotti eravamo anche primi in classifica, ma non si respirava mai quell'amore, quella sintonia, perché poi alla fine e la Juventus è cambiata negli ultimi anni, perché se noi andiamo a valutare il fortino del Juventus Stadium, Conte allenatore, sembrava i tifosi che giocassero la partita. Se tu andavi a vedere la partita della Juve a Torino, dava proprio la sensazione di una juventinità che veniva trasmessa dai tifosi, passava per allenatore e per i giocatori in campo. Io mi ricordo quando c'è stato Ancelotti, non c'era questa simbiosi, non c'era questa alchimia tra tifosi e allenatore, perché ogni 10 minuti partiva un coro contro il mister, non sentivi veramente una sinfonia. Sì, messa bella così è un suicidio, ha ragione il tifoso interista che ha scritto prima, cioè l'aspetto ambientale diventa un grosso problema per la Juventus in questo momento. A oggi sulla rete i tifosi non è che abbiano grande entusiasmo. No, sono schierati chiaramente contro Allegri, poi vedremo, perché la rete non è necessariamente la realtà. No, certo, però dopo la Juve è sempre lei, andrà avanti per sempre, quindi i tifosi è giusto che poi rimangano attaccati a questa maglia, però sicuramente, non lo so, si poteva magari aspettare qualche giorno, valutare un po' le situazioni, se c'era qualcosa, perché ovviamente non è che poi c'era in giro tantissimo, però, ripeto e chiudo, non è mai facile partire e anche dopo che parti puoi anche far bene con un allenatore che non è visto bene a oggi da quello che si sente in giro. Poi io spero che Allegri possa fare un buon lavoro. Non è facile, tornando alla domanda che mi hai fatto, per un giocatore avere un condottiero che poteva fermare il pullman in qualsiasi posto del mondo e dire buttatevi nel fiume, tutti si sarebbero buttati nel fiume a oggi con Antonio Conte. Adesso arriva un allenatore che si deve riconquistare una fiducia, però in un ambiente traumatizzato sportivamente parlando, perché adesso non è facile. Allegri secondo me deve essere bravo, ma bravo le prime dichiarazioni che fa la squadra. Sì, cioè, saranno assolutamente quelle, ma secondo me anche quelle tra 10 minuti in conferenza stampa, perché sarà quello il messaggio che poi lancia al mondo. Pier, tu hai idea della faccia che può aver fatto Tevez questa mattina a Vinovo? Tevez ha fatto un tweet oggi. Sì, ma quello è il tweet di ringraziamento a Conte, ciao mister, era anche abbastanza scontato. Non lo so, io ho visto invece un calore particolare, un'enfasi particolare, credo che abbia detto tu sei un grande campione, cioè non era un tweet freddo, formale, di circostanza, era un tweet veramente di uno che stava elaborando il lutto della partenza di un allenatore molto amato e molto stimato. No, volevo chiedere a Alessio, secondo lui con un ambiente diverso Ancelotti avrebbe vinto uno di quei due campionati persi di pochissimo. Sì, magari quello della pioggia di Perugia. Insomma, Pier, sicuramente, anche perché la sensazione proprio che dava al mister di non sentirsi amato. Io lo continuo a dire, quella squadra che ha avuto due possibilità, è vero che parliamo di Perugia, ma prima di Perugia c'erano tanti punti che hanno ballato contro la Lazio e noi mentalmente siamo un po' crollati, ma proprio c'era la sensazione, ma veramente dal campo al pareggio, alla sconfitta, subito la contestazione. Perché? Perché parti che non hai un bonus, non hai un credito. Ecco perché, ripeto, non è facile per Allegri, non sarà sicuramente facile. Poi non parliamo tecnicamente, perché è un buonissimo allenatore, ma sicuramente anche se ne vince 4, 5 di fila sono lì pronti. Io ripeto, da quello che si sente in rete e da quello che ho percepito io, non è ben visto dal popolo juventino. E poi soprattutto in questo momento qua perdono un condottiero veramente che deve essere bravo, a prescindere secondo me dalla stampa Allegri, perché poi dopo parla al campo, è come si inserisce in un gruppo, se si inserisce in maniera aggressiva, se si inserisce in maniera tranquilla, sappiamo il discorso di Pirlo, insomma sappiamo adesso che mercato farà, con che modulo giocherà, perché sa, anche noi sono 2 anni tra anni che stiamo parlando di Conte a livello di campionato, a livello che poi di... sa anche se sarà aziendalista o se sarà capace di farsi valere, per gli juventini era una garanzia Conte che sbatteva i pugni sul tavolo. Chissà se Allegri avrà la stessa forza anche contrattuale nei confronti di Agnelli e Marotta. Vi devo salutare, ciao a tutti e due. Ciao ragazzi, ciao Pier. Ciao Alessio, Pier, a domani. Ciao. Sicuramente la Juventus perde tanto, perché è inutile negare il valore reale del nostro allenatore e quale sia stata e quali siano stati i suoi meriti in questi 3 anni. Cosa farà domani Antonio Conte? Buffon ampiamente rivedibile ieri a Carrara a cantare con Umberto Smaila. 800 24 00 24, Doriano da Mantova. Doriano? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo per esprimere il mio dissenso sulla scelta della Juventus, perché un allenatore come Allegri, che è sempre stato abbastanza ostile alla Juve, venire ad allenare la Juve dopo le sue dichiarazioni anche mi sembra una cosa un po' triste, via. Sì, Doriano, però non sì. Mi sembra ad esempio che voi juventini abbiate avuto problemi con Capello, che non più tardi di un mese prima di andare alla Juventus non era certo stato tenerissimo da allenatore della Roma. Voglio dire, sono pur sempre professionisti che poi difendono la società per cui lavorano. Sì, pure lui, anche Capello aveva espresso il dissenso di venire ad allenare la Juventus, però lui ha giocato nella Juve, perciò un qualcosa di juventino c'era, diciamo, da parte sua, mentre Allegri invece non ha nulla, e anche la società, agendo in questo modo, praticamente ha calpestato un po', diciamo, i tifosi, perché i tifosi insomma non è che siano molto favorevoli ad Allegri, e in più appunto la società non ha fatto i conti con questo, secondo me. Sì, ripeto, poi c'è anche Conte che l'anno scorso ha detto io qui sono tifoso della Juve, allenassi l'Inter ad esempio sarei il primo tifoso dell'Inter, perché poi, e lo dico ancora, lo sottolineo, questi sono professionisti, però hanno ragione i tifosi, hanno ragione, se non gli piace hanno ragione a sentirsi anche presi in giro in queste ore, perché tutto questo andava fatto 2 mesi fa, se davvero, come sembra, la storia tra Conte e la Juventus era finita. Salvatore da Livorno, Salvatore. Sì, buonasera, sono Salvatore a Livorno. Prego. Io ritengo che le responsabilità di questa vicenda siano tutte da attribuire alla Juventus, perché Conte aveva già espresso dei dubbi a maggio, e a maggio doveva essere chiusa la storia. In realtà sono state promesse probabilmente delle acquisizioni sul mercato a Conte, come quella di Sanchez e di Turbe. Sanchez è andato all'Arsenal. A mio avviso la società ha chiamato Conte dicendogli che la trattativa e Turbe si stava, tra virgolette, incasinando, perché Turbe sappiamo che sta definendo con la Roma. A quel punto Conte non ci ha visto più e ha dato le dimissioni. Sì, può essere, ma credo che ci sia però più che altro un discorso di motivazioni, perché un anno fa, alla fine, pur con questa prospettiva di mercato, Conte nella Juventus c'era rimasto e ha costruito una stagione straordinaria. La realtà è che lui, e lo ha detto chiaramente, riteneva chiuso il ciclo di questa rosa, a prescindere dai nomi che sarebbero arrivati. Gianluigi da Monza. Gianluigi. Sì, buongiorno, buongiorno. No, beh, io ribadisco buongiorno. Un attimo le ultime due cose. Buongiorno, quella che ha detto lei prima e l'ascoltatore di adesso. Io sono un abbonato allo Juventus Stadium. Cioè, ma secondo me questa vicenda bianconera ha quasi del dilettantismo. Cioè, non si può arrivare il 16 di luglio e l'allenatore si dimette. Forse noi adesso, diciamo, la cosa appena successa non ci rendiamo conto, ma è una cosa fuori dal mondo che l'allenatore si dimette il primo o secondo giorno di ritiro della squadra. Sì, io non ne ho memoria secondo me è un grosso errore della Juventus, perché se si è arrivati a questo punto, evidentemente ragionando in maniera razionale, era tutto molto chiaro già due mesi fa, i segnali c'erano, si trattava di parlarsi senza tentare di portare avanti un rapporto finito. Il risultato di quel tentativo è che la Juventus a metà luglio deve ricostruire una progettazione, partire con un allenatore non amato dalla piazza, che forse non sarebbe stato il primo scelto se la Juventus si fosse mossa alla fine di maggio, tutto questo evidentemente con una brutta figura a livello di immagine ed evidentemente con qualche ripercussione anche sul campo, però ci siamo quasi, ho visto il tavolo pronto col microfono a Vinovo, quindi Allegri sta per rilasciare le sue prime dichiarazioni da allenatore della Juventus. Noi continueremo a seguirlo, saremo qui per tutto il pomeriggio anche nei notiziari. Tutti convocati invece torna domani. Io ringrazio Franco Piantanini, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roby Scaltritti in regia. Ciao, a domani.